abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione al pallone all'indietro, Cagliacollo l'ha respinta due volte di Andanovic, miracoloso sulla seconda da terra. Porca Valero, e Reina questa volta a fare il miracolo. Marquez va a mettere un altro sigillo sulla sua straordinaria stagione, a prendere un po' di punti di vantaggio ulteriori su Andrea Dovizioso. Se la giocano in volata Rossi e Zarco con Vignales in terza posizione. Marquez c'è e vince il Gran Premio d'Australia. Dietro, andiamo dietro, passa Rossi. Zarco quarto, Crashlow quinto, sesto Iannone, settimo Miller, ottavo Rins, nono Espargaró, decimo guarda Smith, Redding e Pedrosa davanti a Dovizioso. Non ci voleva. Parte Kolarov! Ancora Kolarov, sempre più leader di questa Roma. Khedira si lascia ingolosire, sì, perché c'è spazio. Khedira! Tripletta! Mostruoso Khedira! Si porta il pallone sul destro, Lulic, eccolo il cross per Marusic, dentro la sua sponda, Immobile! Ultimi metri con Verstappen che trova uno spiraglio impossibile, si infila e prende il podio. Lewis Hamilton vince il Gran Premio degli Stati Uniti. Beh, diverse cose sono successe in questo weekend, non solo a proposito di palloni che rotolano o di pallonate che fanno male, come quella che ha preso in faccia di nuovi milanisti. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Allora, ciao Pardo. Pardo? Sì, sto qua, pronto? Ciao, ciao. Volevi il sangue? Hai avuto il sangue? Cosa hai detto? Cosa ha detto Pardo venerdì? Sentiamolo. Milan Genoa X1 X, e lui vuole giocarsi l'esonero di Montella lunedì sera, Pardo. Tiki-taka, capito? Vuoi il sangue di Montella. Io gioco per lo spettacolo. Ma che spettacolo? Vedi Maurizio Crosetti, io devo il venerdì devo tenere a bada i bambini che fanno la schedina. Non posso lasciarmi soli un momento. Infatti, ma dove eri che non ti trovo più? Stavo cercando di far funzionare Mediaset Premium a Repubblica con due bottarelle, poi alla fine sono riuscito a sentire la telecronaca di Pierluigi, ma è per un pelo, eh? Per un pelo? Ma, no, allora ragazzi, è chiaro che il tema di questo lunedì, che era lo sport di questo lunedì, è il tiro al Bonucci, no? Mi sbaglio? Chi spara per primo? Pardo o Crosetti? Pardo? Sì, no, ma non c'è da sparare. No, ma è per carità, che io è mi una dissocio. Delle più clamorose crisi e involuzioni di un grande giocatore che si sia vista in tempi recenti. Poi è una fase, stiamo commentando sostanzialmente due mesi, quindi c'è tutta la vita davanti, mi verrebbe da dire, e c'è tutto il tempo per recuperare, però... siamo di fronte, la notizia c'è, qualcosa di clamoroso sta avvenendo, perché al netto di tutte le difficoltà che il Milan ha, della necessità di trovare la quadra, la famosa amalgama, Bonucci si sta mettendo nel suo, un giocatore completamente diverso da quello che invece fino a qualche mese fa ammiravamo, ma insomma tornerà ma perché sì, tutti tornano, l'anagrafe è ancora dalla sua parte, quindi è una questione di tempo, però indubbiamente, ripeto, la notizia c'è ed è clamorosa. Sì, e poi abbiamo appuntamento anche col suo mental coach, speriamo che risponda al telefono, psicanalizzeremo il mental coach di Bonucci. Sì, però è chiaro che questo nasconde molte cose, no Maurizio? La crisi del Milan nasconde la buona Roma che abbiamo visto ieri vincere a Torino, nasconde l'ottima Inter che abbiamo visto pareggiare a Napoli, nasconde anche, perché oggi non lo sottolinea nessuno, Maurizio, ma Mandzukic, se Bonucci fa quella fesseria che fa, nonostante Montella lo difende in maniera improbabile, Mandzukic, cioè, si fa cacciare fuori dopo 26 minuti, mi pare, no? Pardo, eri lì a commentare la partita. Sì, sì. 26 minuti in maniera. Cioè, che uno dice: ma come fai? Cioè, sei un leader della Juventus, ti hanno appena dato il giallo e mandi in quel posto a stendere l'arbitro da un millimetro. Ma è così, ma perché in realtà noi sottovalutiamo troppo, voi parlate di mental coach, è molto interessante al di là delle facili ironie, perché la spiegazione è quasi tutta lì. Nel momento in cui si spegne il cervello, parte l'embolo. La crisi di Bonucci è una crisi, secondo me, da pressione psicologica evidente. Lasciamo stare i problemi personali, perché lo hanno comunque condizionato, ha vissuto un anno difficilissimo, prima come padre e poi come giocatore della Juventus, la lite con Allegri, la punizione, lo sgabello, il rientro, Cardiff, il mercato, e la fascia da capitano, le pressioni, l'obbligo di dover essere Beckenbauer, quando sei Bonucci, che sei un buonissimo giocatore, ma non sei Beckenbauer. Secondo me ha sbroccato per questo, per troppa pressione, ma basta guardarlo prima delle partite. Io l'ho guardato attentamente prima che scendesse in campo, aveva scritto in faccia non soltanto la grinta e la voglia, ma anche l'ipertensione. Certo. Mandzukic è uno così. Mandzukic è idolatrato dai tifosi della Juve, che lo chiamano l'onnipotente Mario Mandzukic, proprio per quello che qualche volta gli scatta. Cioè, non possiamo prendere i campioni, le persone, vorrei dire, ma stiamo parlando di calcio, a pezzi, no? Cioè, se vuoi Mandzukic lo prendi tutto intero, compreso il giorno in cui gli parte l'embolo, anche se a quei livelli non può, non dovrebbe mai succedere. Sì, buona Juve comunque ieri, Pierluigi, non era così scontato. No, così scontato, c'è da capire che cosa sia l'Udinese, sinceramente, per onestà. Bravo. Però la Juve ha reagito in maniera incredibile, ha reagito in maniera poderosa, e ieri è una di quelle vittorie che è diventata importante proprio perché è passata attraverso delle difficoltà, perché indubbiamente sul 2-2 con l'uomo in meno al 48esimo tirava una brutta aria. Invece la Juve è stata bravissima e ha dominato la partita. Ripeto, ci sono le responsabilità dell'Udinese che sono enormi, però è una reazione, è qualcosa di più di una vittoria, è una vittoria che ha un significato. Poi la Juve ha delle cose strane indubbiamente rispetto al passato, segna tantissimo e questo non è poi così banale, così diverso, e soprattutto subisce molto, cosa che nel passato non succedeva. Però insomma, alla fine conta la somma, no? Conta. D'altra parte vogliamo la Juventus bella, la vogliamo vedere segnare tanti gol, subire tanti gol. Forse sta condizionando un po' anche loro questa favoletta, no? Ovviamente estremizzo, esagero, Maurizio. Beh, Buffon non è mica contento. Cioè, lui quando è sceso negli spogliatoi ieri sera non ha detto accidenti, siamo diventati il miglior attacco della Serie A. Ha detto accidenti, vincendo 6-2 gli scudetti non li prendi. E lo dice non solo perché ha un portiere gira le scatole quando deve raccogliere il pallone nella rete, ma perché sa benissimo anche lui che gli scudetti si vincono soprattutto con la miglior difesa. Dopodiché Allegri la girata lo sa anche lui benissimo, e ha detto vorrà dire che quest'anno proveremo ad invertire la tendenza ad essere la prima squadra che vince il campionato non con la miglior difesa, ma con il miglior attacco. Senza l'equilibrio il campionato non lo vinci, ma io sono contento che la Juve non abbia ancora ritrovato, Juve che ritengo ancora superiore a tutti, che non abbia ancora trovato quell'equilibrio, perché ci permette quantomeno un autunno di aperture, divertente, di possibilità, sì, di divertimento, un campionato, il più bel campionato degli ultimi anni finora, non c'è dubbio. C'è chi mi scrive via WhatsApp 349-238-6666 per la cronaca. Su Mandzukic non ci avete capito un cazzo, Mimmo da Livorno. E allora chiamaci e spiega, Mimmo, perché così davvero non capisco nulla di quello che intendi dire. Mimmo vuol dire che Mandzukic si è preso un calcio e pensava che ci fosse rigore. Ma e questo non vuol dire. No, scusa, non vuol dire. Faccio l'esegesi della ma non vuol dire nulla. È uno che non credo fosse Mimmo da Livorno, ma ha detto che non avevo capito un cazzo perché in realtà non era il discorso legato al rigore. In realtà era il discorso legato al rigore che c'era. Sì, va bene. Non ci siano grandi. C'era, non te lo danno. Prendi il giallo e che fai? Mandzukic fa un'ingenuità clamorosa, non si discute, però ieri, e devo dire con episodi più da una parte che dall'altra, ma complessivamente anche con episodi sbagliati dall'altra parte, perché ci poteva fare un rigore per l'Udinese, perché c'è una posizione di Rugani di partenza sul gol del 4-2, poi però c'era prima quella di Danilo. Insomma, ieri è successo di tutto. Il VAR a Udine o si era rotto il VAR? No, perché sembrava un arbitro. Il VAR a Udine sembrava un arbitro. L'ha umanizzato, è clamoroso, stasera ne parleremo, perché insomma, ripeto, è un concetto proprio che prescinde dall'interesse di una squadra piuttosto che dell'altra. Veramente uno si chiede, ma che fate, che è successo? Perché è veramente clamoroso. E poi c'è anche il tema del quale parleremo dopo, di Montella, che in qualche modo prende la stessa linea di Allegri di qualche settimana fa. Sì. No, Montella mi sembra chiaramente in difficoltà. Ragazzi, vi chiedo. Sul VAR dice essenzialmente che si arriva a un tipo di trattazione di argomenti arbitrali che è più da PlayStation che da partita di calcio vera e propria. Sì, questo quello che aveva detto Allegri dopo Bergamo, questo è un macro tema che non possiamo sbrigare certo oggi, anche perché vi chiedo un attimo di pazienza, poi lasciamo andare Cross. Però già cominciate a riflettere, dopo questo weekend vi prendete l'Inter o la Roma? 800-24-00-24, traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Maurizio Crosetti, Pierluigi Pardo, penso che loro signori ci abbiano pensato, avete avuto il tempo necessario e sufficiente. Dopo questo weekend, l'Inter che pareggia a Napoli, giocando una partita estremamente seria, secondo me, mi sembra il termine corretto, o la Roma che va su un altro campo non banale come quello di Torino e si porta a casa un bel 1-0. Chi ti prendi, Cross? Ma io continuo a prendere l'Inter perché la ritengo complessivamente superiore alla Roma, anche se la Roma ha un giocatore che in Inghilterra sembra Van Basten, no? Cioè in Inghilterra non quando ci giocava Dzeko, ma nell'ultima partita ovviamente contro il Chelsea. E la Roma è una squadra molto interessante, che però secondo me ha ancora bisogno di un po' più di rodaggio. L'Inter ha un rodaggio avviato a livello di allenatore, l'abbiamo detto fino alla noia quanto questo sia importante, sia stato finora molto importante, però complessivamente i giocatori sono quelli che erano, e negli snodi centrali di una squadra, portiere, mediana, centravanti e anche Perisic, perché quello è un fenomeno quando ha voglia, in quegli snodi lì l'Inter secondo me ha qualcosa in più della Roma. Grazie Mau. A presto. Grazie a voi, ciao. Ciao Maurizio Crosetti. Vai, dire, certo, no, mi divertiva il contraddittorio. Ah, Croce ancora. No, vabbè, non lo so, no. Però io invece mi prendo la Roma, mi piaceva giocarmela così, perché credo che alla lunga abbia più talento. E credo che stia sistemando pian piano le sue cosine, credo che stia crescendo come mentalità, come autostima, ha avuto una partenza ad handicap con l'allenatore nuovo. Perché aveva più talento, non sembra indiscutibile. Ma secondo me la Roma ha tanto talento. Allora, nelle 38 partite ci hanno portato a credere che poi alla fine possa arrivare più avanti. Però insomma l'Inter anche l'altra sera ha passato l'esame di laurea, perché comunque è uscita alla grande da una partita complicata. Attenzione domani a Inter-Samp, sì. che è già un match non banale, secondo me. Ma tanto tu la Samp non la prendi mai, quindi qualunque pronostico tu dirai sarà il contrario. 4-2 ho accorciato con grande classe, beccando Milan-Genoa, beccando Chievo-Verona e quasi beccando Napoli-Inter, dove tirare, mi sentivo il pareggio, come sai, ci sono le registrazioni, poi ho giocato le prove. Perché era più, insomma, più perché probabile. Hai seguito l'avversario. Seguito Capuano. Allora io tornerei sull'argomento Milan, che è l'argomento del giorno di questo lunedì, del tiro al Bonucci, del tiro al Montella eccetera. Vi faccio sentire due dichiarazioni di Montella che secondo me sono un po' rivedibili. La prima è proprio sul suo capitano. Ma quante volte ho preso posizionamento usando i gomiti? Dai, secondo me stiamo andando sulla direzione che gli episodi stanno diventando più televisivi che di campo. Poi va bene, se abbiamo giocato 70 minuti in 10, ma la prendo questa situazione, però ecco, questo è il mio timore. Non ci facciamo prendere troppo dalle situazioni televisive e meno quelle di campo, che poi sono quelle più dove c'è più sensibilità, anche più valutazione dell'arbitro, no? Questo voglio dire. Poi certo, però io non vorrei parlare tutta l'intervista di questo. Allora, Montella sulla falsa riga di Allegri. Mi viene difficile dire che non fosse espulsione quella di Bonucci, televisione o non televisione, mi sembra qualcosa di piuttosto solare. Sentiamo anche Montella invece a proposito di errori che possono condizionare una carriera, magari la sua. Io sono convinto che questa sia una squadra che può tirarsi fuori, oggi l'ha dimostrato in 10. Stiamo pagando un po' tante situazioni, stiamo pagando anche gli episodi, e oggi ne abbiamo visti due, no? Che avete dimostrato voi, che possono cambiare il corso di una partita, di un risultato, in questo momento a noi o forse anche a me, ecco perché talvolta posso sembrare un po' nervosetto, può cambiare anche il corso di una carriera. E questo siamo qui, l'accetto eventuale errore, però mi sembra che nel dubbio ultimamente ci sia sempre qualcosa che il Milan sta pagando. Allora Pierluigi, come valuti queste dichiarazioni? Non bene, ma sai, questo è un momento, questo è un momento in cui qualsiasi cosa dice Montella viene attaccato, vabbè. Questo mi sento di dire, sì. Cioè, i risultati nel calcio e nello sport hanno un peso troppo grande, per cui poi alla fine lo stesso tweet, lo stesso post con le stesse parole detto dopo una vittoria o dopo una sconfitta cambia completamente, no? Penso anche a Bonucci, alle tante cose di comunicazione che ci sono state in questo periodo. Sul VAR io credo che insomma sia una sia stata una debolezza essere caduti in questa polemica, anche se il tema secondo me ci sta. Io ero fra quelli che quando Allegri parlava dopo Atalanta-Juve o Buffon dopo Genoa-Juve, forse perché sono naif, ci leggevo non tanto una rivendicazione di parte ma un discorso complessivo su come si utilizza questo strumento, e mi pare che Montella sia sulla stessa lunghezza d'onda, quindi anche lui è arrivato insomma nel partito, non dico dei pentiti ma dei dialettici a proposito del VAR. E sul fatto che la sua carriera, quello è il momento freudiano, quello è il momento freudiano secondo me più interessante, quando lui dice un'intera carriera, dice una cosa vera, giusta, cioè Montella si sta giocando la carriera. Sicuramente la vita è lunga, anche qui ci sarà la possibilità di recuperare, però ho la sensazione che questo qui sia per lui ma lo dicevamo anche quest'estate, cioè per Montella quel rinnovo contrattuale che c'è stato con la possibilità di allenare il Milan quest'anno, con tutte però le pressioni dei nuovi acquisti, le pressioni che ne derivavano, certo. Poi adesso trovava la spacca, non so come dirti. No, ma è così, ma non dimentichiamo anche che viene da un'esperienza non fortunatissima, quella di Genova con la Sampdoria, poi è arrivato a Milan l'anno scorso così, quest'anno non benissimo per l'appunto. Davide, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirvi tre cose velocissime e poi vi ascolto per radio. La prima cosa è che dovete andare per forza alla notte degli Oscar, perché secondo me siete i numeri uno. Punto primo. Notte degli Oscar. Sì, Pardo conduce la prossima edizione, ve la do in anteprima. Punto secondo. Il mio personalissimo parere sull'Inter da interista. Secondo me l'Inter ha giocato una partita senza paura di affrontare il Napoli, quello vero, che penso io. No, penso ed è venuta fuori una partita, secondo me, eccezionale da parte degli uomini di Spalletti. E poi vi lascio la conduzione, se poi posso fare un saluto, volevo salutare il mio amico Luciano Zanotto, che è allenatore delle giovanili del Vicenza Calcio. Grazie e buona conduzione. Tutti insieme, Luciano Zanotto, allenatore delle giovanili di Vicenza Calcio. Va bene, fuori programma non previsto, però su tutto il resto penso sia fredda cronaca, no? La partita che ha giocato l'Inter sotto gli occhi di tutti. L'avrà vista anche Antonio da Isernia, poi ci andrà dalla provincia di Napoli. Ho come la sensazione che abbiano visto quella partita. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Dica. Ecco, volevo dire la mia sul momento del Milan e su Montella. Prego. Che mi sembra la fotocopia, o pressoché la fotocopia, del periodo critico e buio di Allegri al Milan. Questa mi sembra come una fotocopia. Secondo me, senza allungare troppo l'agonia, Montella non è da Milan, non è a livello del Milan, come non lo era Allegri, e sappiamo che se ne ha fatto. Non lo era Allegri. Quindi Montella prima se ne va e meglio è, senza allungare troppo l'agonia, perché predica bene e razzola male. E anche Allegri, anche Allegri non era all'altezza del Milan, cioè una pippa. No, questi sono tutti allenatori, sono bravi allenatori, capaci, però fino a un certo punto, perché allora poi uno, a un certo uno bravo punto, chi è uno capace? Chi è uno bravo? Ma è uno bravo chi è? Devo fare un esempio? Direi. Allora, o la fotocopia di Sacchi, o la fotocopia di Capello, o la fotocopia di Ancelotti, ma non certo la fotocopia di Allegri, di Mihajlovic o dello stesso Montella. Signori miei, però mi scusi, guardi, io voglio Capello e voglio bene a Mihajlovic e voglio bene a Montella. La carriera di Allegri ad oggi parla non è comparabile sua, con quella di Montella e quella di Mihajlovic, perché sennò veramente di che cosa stiamo parlando? Cioè, la carriera di Allegri è di uno che ha vinto uno scudetto al Milan, tre scudetti alla Juve, ha fatto un miracolo arrivando terzo con il Milan, due finali di Champions League, dice non ha vinto, va bene, ha fatto due finali di Champions League, che per una società, per un club significano soldi, prestigio, vendere i giocatori a un prezzo più alto di quello di prima, per i tifosi significa comunque esserci andati vicino. Che capisco, poi se la mettiamo sul piano degli sfottò è ovvio che ci sono un sacco di italiani che hanno goduto nella sera di Berlino, nella sera di Cardiff, e sapete che noi siamo per la libertà di cupaggio, quindi ma noi siamo totalmente proprio laici. Noi però, non la pensiamo rimane, come Mondini. Dal punto di vista di uno sportivo rimane essere arrivati in finale. Ma ci mancherebbe altro, è un grande risultato sportivo. Risultato, poi Allegri sarà una pippa, che deve fare sto uomo per convincere gli altri che è comunque un allenatore da top club, qual è Andrea, buongiorno, non ti arrabbiare per Luigi, tanto è inutile. No, ma non mi arrabbio. Mulini a vento, Mulini a vento. Si fa la battaglia con i Mulini a vento. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Due secondi. Napoli, anche tre. Napoli in particolare. Allora, a parte Andanovic che ha parato pure l'ombra di se stesso, però comunque avevamo tre quarti di Insigne e tre quarti di Mertens, per cui comunque le occasioni da gol con Insigne intero e Mertens intero forse entravano. Hamsik da un po' di tempo sta sbagliando sempre l'ultimo passaggio. Se tu metti Rogge e Unas un po' prima e magari sconvolgi un po' le carte un po' prima, forse qualcosa lo puoi ottenere, altrimenti comunque è palese che questi qui non sono bionici, quindi sono stanchi, poi Roma, Manchester City, cioè non hai dei robot, qualcosa ti devi inventare, altrimenti questi qui non è che hanno... sono i supereroi, voglio dire, non... l'analisi è perfetta, sì. Il Napoli secondo me l'altra sera ha dimostrato ancora una volta in una settimana complicata nella quale veniva da Roma e Manchester City di essere forte, molto forte, perché è vero che giocava in casa, ma è andata certamente più vicina alla vittoria rispetto all'Inter, quindi che poteva vincere con un Andanovic diverso, con un Andanovic normale, il Napoli avrebbe vinto la partita, quindi secondo me il bilancio dal punto di vista del gioco è positivo. Rimane quella cosa che diceva l'ascoltatore giusta, e cioè che poi dopo l'infortunio di Milik sei un po' corto lì davanti. Sei un po' corto e magari qualcosa devi inventarti. Sai, Mertens che per una volta stecca una partita, Insigne che non è al meglio, e è chiaro che il vero tema del Napoli è quello. Certamente, però io ascoltando, sentendo quello che diceva l'ascoltatore, ho pensato, non so tu all'allenatore del pallone, mi dai un quarto di Rummenigge, tre quarti di Falcao e mezzo, che ne so, Pruzzo, e prendiamo Maradona. Te lo ricordi? Vabbè, dai, non divaghiamo. Borsa e poi torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, l'ho annunciato prima, Pierluigi Pardo. È con noi Alberto Ferrarini, che penso sia la persona che meglio conosce dal punto di vista professionale Bonucci, più di Montella, più probabilmente che più di Allegri, o più di, beh, certamente dei vari commissari tecnici della nazionale. Buongiorno Alberto, ciao. Buongiorno a lei, buongiorno anche Luigi. Allora, ciao, diamoci pure tutti del tu che facciamo prima. Alberto, io vado subito. Mi confermi tutto quello che si legge oggi dopo la Sampdoria, restituzione della fascia, richiesta di allenamento, di allenamenti più duri e di riposare con la EK? Ma questo sono notizie che adesso non ti posso dire, da quello che ho capito probabilmente sei nella direzione giusta. Però non ti so, non posso parlare conto di Leonardo, ti posso parlare per quello che può essere la mia esperienza nei confronti di questo ragazzo che conosco da tanto, che aveva intraveso questo successo da quando era in tribuna a Treviso, quindi parliamo dal 2008. Sì, e allora poi ti lascio a Pardo. Io ti dico, dal punto di vista personale, non mi unisco, ma non perché segui tu, lo dicevo già ieri, l'ho ripetuto oggi, allo sport del lunedì, cioè il tiro al Bonucci. Perché? È vero, non è in condizione, è vero, sta giocando male, però per prendere quella fascia e per prendersi tutte le responsabilità che si piglia lui, non è facile, ci mette la faccia. È vero che prende tanti soldi, ma ci mette la faccia. Io guardi, ho definito Leonardo Bonucci come un soldato. Per me è sempre stato il soldato, in questo caso in primis, di Antonio Conte. E poi è stato un soldato comunque della Juventus, un soldato, un uomo della triade, in questo caso di Buffon, Barzagli e Chiellini. Quindi con tutto rispetto io penso che questo, se dovesse fare questo passo indietro, tornerebbe nel suo ruolo, dove riesce a dare il meglio, dove è più accentratore. Quindi magari meno responsabilità, dove lui è focalizzato totalmente su di lui. Leonardo è un giocatore che fondamentalmente, a differenza magari di altri, non è nato campione, è diventato un campione, e di conseguenza è diventato campione attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, ma soprattutto attraverso la centralità che lui ha di se stesso. Secondo me l'espulsione di ieri è un grand game over, come dire, la prima parentesi con il Milan, e adesso logicamente c'è la rinascita, Io penso che ci sarà una grande soddisfazione, lui ha una grande voglia di rivalsa e soprattutto, a parte le soddisfazioni che magari potrà avere nelle prossime ore, io penso che Leonardo non farà altro che voglia di rifarsi con il Milan e di conquistarsi quella maglia. L'espulsione di ieri, secondo me, è come dire di chiudere un capitolo, questo primo capitolo che è iniziato col Milan. Io ho sempre sostenuto che un'aquila vola sopra la tempesta, di conseguenza gli uccelli stanno in mezzo alla tempesta, ma l'aquila sta sopra. Leonardo in questo momento sta facendo questo, condivide e accetta le critiche giuste, perché non è Leonardo Bonucci della Juventus, però lui ha fame di ritornare più forte anche di prima, assolutamente, perché ha molta più esperienza. Capito, Pierluigi? Sì, no, a parte che andrò da Ferrarini a chiedergli qualche consiglio, lo farò mio mental coach. No, io avevo questa idea e non, vorrei appunto avere la certezza di aver capito bene, perché mi sembra esattamente da fuori, dall'esterno ovviamente, non da diretto interessato, la chiave. Quindi troppa responsabilità, faccio per dire, la fascia da capitano, quella serie di tweet che sono stati fatti. Al di là di questo, Pierluigi, io non sono qui a dire poca o non poca. Io penso che il Milan abbia preso uno dei centrali più forti del mondo, però era un centrale che era focalizzato su se stesso e non focalizzato su tutti. Secondo me Leonardo, se torna a fare il soldato, penso che i milanisti avranno una grande ed un'immensa soddisfazione, perché lui è un accentratore di energia. Lui è una persona che pensa a fare una cosa buona, dopodiché a rifarsi. Sarà un paradosso. Quando è stato capitano alla Juventus non ha fatto delle grandi prestazioni. Cioè tu dici, fammi capire Alberto, scusami, tu dici fare il soldato, intendi, deponiamo la fascia di capitano, non capitano ma soldato. Il giocatore di calcio, il calciatore, il grandissimo lui calciatore. Lui deve fare Bonucci, punto. Lui deve accentrarsi su questo, secondo me può dare un valore immenso al Milan attraverso l'esempio, attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, attraverso gli allenamenti stessi che fa, che comunque è un ragazzo che magari va a allenarsi un'ora e mezza prima, finisce dopo, cioè comunque uno che veramente vuole dare qualche cosa in più. E io penso che avrà una grande soddisfazione in questo, perché, ripeto, poi questo bagno di umiltà gli ha fatto anche tanto bene, perché comunque guardiamo quest'estate come è stato accolto al Milan. Cioè, queste cose qui comunque lo hanno spedito il suo ego al 50° piano di un grattacielo. Qui ha avuto una ridimensionata, secondo me è un qualche cosa che a lui tornerà molto molto bene. Un bagno di umiltà in questo contesto qui gli fa bene. Lo conosco perché comunque siamo partiti che era in tribuna Treviso ed è arrivato dove è arrivato. Nel periodo peggiore della sua carriera è stato anche acquisito col calcio scommesso ingiustamente. Hanno cercato di sfondarlo, alla fine ha vinto lui, è andato avanti e si è rifatto. Ha ripreso il fatto quel primo anno con la Juventus male, poi è arrivato Antonio Conte, panchina, è tornato ad essere un grande giocatore grazie al suo allenatore che l'ha fatto diventare ciò che è. Poi, secondo me, il tempo sarà galantuomo e vedrà se quello che stiamo dicendo è la cosa più giusta o meno, insomma. Alberto, ti chiedo solo una cosa su questa cosa che mi piaceva ed era molto interessante del game over, no? Che uno nella vita probabilmente ha bisogno di alcuni momenti in cui tocca al fondo. Una sconfitta gli fa voltare pagina, no? Se non ho capito male. E chiaramente la comitata di ieri, il fatto che salterà la Juve, insomma, in qualche modo è uno stacco, è un passaggio. Lui, immagino che ci avrebbe parlato in queste ore, è consapevole, la vive così, cioè sa che questo qui è il primo passo verso la rinascita? Guarda, Leonardo, la cosa che mi piace di più, oltre che essere una persona molto disponibile, è una persona estremamente intelligente, dove trasmuta il negativo al positivo. Lui ha ben capito che ieri ha toccato il fondo, magari è stato anche sfortunato, ma non mi piace, la sfortuna per me non esiste. E per me esiste comunque questa situazione, quindi game over nel senso, come dire, ok, ora si riparte, più forte di prima, più affamati di prima. Bene, grazie Alberto. No, aggiungo questo: come lavorerai su Bonucci nei prossimi giorni? Immagino. Penso abbiamo già deciso cosa dobbiamo fare. Io sono felice, lui lo è più di me, e andiamo avanti cercando semplicemente di fare quello che abbiamo fatto, migliorarsi sempre di un millimetro, e questo è il nostro obiettivo. Ripeto, tutta questa fama che ha avuto al Milan, secondo me, è stato molto bello, è gratificante. Però secondo me magari non ha fatto così tanto bene a lui. Lui è un giocatore umile, un giocatore normale che deve diventare un campione, e quindi tutta questa situazione che è stata creata magari non lo hanno aiutato sotto un aspetto, ripeto, egoico. questa situazione, questo bagno di tempesta, secondo me sicuramente torna con i piedi per terra per farlo essere ancora più umido, più affamato di prima. Grazie, grazie davvero Alberto Ferrarini. Molto interessante, grazie molto, Alberto. Molto interessante. A voi, buona trasmissione, buona giornata. Grazie, grazie. Ciao. Abbiamo quasi utilizzato Bonucci come pretesto, no? Per capire anche un po' la psiche dei giocatori, di come bisogna lavorare con loro, insomma. Beh, ma guarda, questa cosa è... Cioè, ci ha dato una grande notizia, nel senso che poi questo è il percepito ovviamente di chi lo conosce molto bene, forse in qualche modo sarà anche il percepito di Bonucci. La sensazione è che realmente si sia caricato di responsabilità che probabilmente sono eccessive anche per un grande giocatore come lui. Insomma, l'ha detto e l'ha spiegato benissimo, quindi evidentemente leader sì, ma fino a un certo punto. Forse... il Milan che cercava questo gioco, io capisco perfettamente il Milan, caricare Bonucci di questa responsabilità ci stava, era normalissimo e in qualche modo era anche qualcosa che corrispondeva al desiderio, all'aspirazione da parte dei tifosi, ci mancherebbe altro. Mi ricordo ovviamente il giorno in cui Bonucci ha firmato per il Milan, insomma sembrava, c'era giustamente l'entusiasmo che c'è stato per i grandissimi calciatori della storia rossonera, però forse un po' troppo. Poi ovviamente ci saranno anche delle valutazioni di carattere tecnico, però la psiche sai che è molto importante. Allora fermiamoci per il traffico, secondo appuntamento con il traffico, torniamo poi con Paolo da Milano e con un altro ospite che abbiamo in scaletta. Convocati. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, continuiamo con Paolo da Milano. Sì, okay. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Senti, io volevo fare un po' una testimonianza in merito a quello che avete parlato di Bonucci riguardo al capitano. Sì. Nel senso che io sono un allenatore, altro sport, altro sesso, perché allenatore di volley femminile. E qualche anno fa, nel nostro piccolo, nella Serie C, ho vissuto una situazione simile. Arrivo in questa squadra nuova, scelgo una giocatrice in base al periodo passato all'inizio, do la fascia di capitano e questa ragazza qua ha cominciato un percorso secondo me un po' diverso. Dopo varie situazioni abbiamo deciso, abbiamo parlato, abbiamo tolto questa fascia di capitano, parlandone con lei, non credo che sia lo stesso caso di Bonucci, però gli è stato tolto un peso, ha cambiato completamente le prestazioni. Sarà stato un caso oppure no, secondo me ha inciso anche quello. L'ultima cosa, poi vi lascio e vi ascolto per radio. Da interista, partita di sabato Napoli-Inter, bellissima, l'occasione più clamorosa secondo me, meriti del Napoli, ma a parte i due portieri, l'occasione di Vestino. Sì. Saltato anche il portiere, quella è secondo me l'occasione più clamorosa. Chiedo, se fosse entrata quella palla era uno scandalo, non era uno scandalo, non sarebbe stato uno scandalo, però parlare in termini ipotetici diventa molto difficile, non sarebbe stato uno scandalo, poteva anche vincere l'Inter l'altra sera, anche se chiaramente Andanovic, anche questa cronaca, è stato migliore in campo. Piuttosto possibile, Pierluigi, che un pezzettino di stoffa sul braccio o un numero come il 10 possono distruggere un giocatore? Guarda, io non so se è il discorso della fascia di capitano o se sia soltanto quello. Secondo me non è solo quello, sono anche i tweet, sono anche le pressioni, le aspettative, il fatto che Bonucci è stato utilizzato, ma giustamente, anche perché è stato pagato tanto, e quindi adesso noi non diventiamo neanche ipocriti. È un giocatore che è stato pagato tanto, di grande esperienza, che è arrivato per fare il calciatore e per fare anche il leader. E non si è tirato indietro, io l'ho sottolineato e l'ho anche apprezzato, perché lui ci ha sempre messo la faccia, e tutte le volte che ci metti la faccia nella vita inevitabilmente vai anche a prenderti un rischio, e lui l'ha fatto, certo, e questo secondo me è indiscutibile. Adesso sentire Ferrarini che dice queste cose mi lascia riflettere, perché evidentemente questo tipo di responsabilità delle quali è stato caricato sono troppo grandi. E ci sta che uno non se la faccia, no, chiaro, quindi, anche uno che sembra un duro come Bonucci, però abbiamo sentito quindi, dire deve tornare a fare soldato, anche quello che ci ha detto l'ascoltatore precedente, perché poi magari anche in un contesto ovviamente diverso, che non è quello dello sport strapagato, però anche lì probabilmente caricare di una responsabilità una ragazza come quella di cui parlava lui, con quella fascia di capitano, in certi momenti è troppo. Il nostro amico Giampaolo Montari ha scritto un meraviglioso libro che si chiama Sfogliato dei tacchini, che è straordinario secondo me nel racconto delle varie tipologie di atleti, certo, di campioni che esistono nello sport, del fatto che alcuni sono leader e altri non sono leader, chiaro, alcuni chiaro. Hanno un ruolo di un certo tipo, l'organizzazione del gioco è fondamentale, le caratteristiche cambiano, no, e probabilmente Bonucci è stato caricato di una responsabilità troppo grande. È chiaro che chi fa questo, fa lo sportivo di mestiere al massimo livello, una psiche molto delicata, perché si tratta di ragazzi giovani, comunque non dimentichiamolo mai, che hanno enormi pressioni, quindi non mi sento di fare di soliti discorsi qualunquistici, questi guadagnano un sacco di soldi e quindi devono sopportare tutto questo. Non è così facile, nonostante i soldi che guadagnano. Giorgio, buongiorno. Pronto? Pronto? Salve, buongiorno. Senta, niente, io chiamo dalla provincia di Napoli, no, volevo fare una riflessione. Da ieri sera, dopo la partita della Juventus, vinta 6-2, ci sono stati strani discorsi sulle reti nazionali, tipo quest'anno la squadra che segna più gol vincerà lo scudetto. No? Perché? No, perché fino a un'ora prima si diceva che chi prende meno gol vince lo scudetto, in genere. Anche Crosetti poco fa ha detto che la squadra che prende meno gol vince lo scudetto, di solito, no? Allora adesso mi faccio la riflessione, dico, sabato sera Napoli ha fatto 0-0, la Juve ha fatto 6-2, stranamente adesso è cambiato, guardi, il paradigma. Fortunatamente lo scudetto non lo assegnano i giornalisti di nessuna, esatto, televisione, di nessun giornale, di nessuna radio, quindi da questo punto di vista stiamo sereni. No, io credo... Chiedo scusa, sui 6 gol, no? Il Napoli vinse 6-0 col Benevento, gli stessi giornalisti hanno detto che il Napoli ha esagerato, che ha infierito sull'avversario, l'ha umiliato. Ieri la Juve ha fatto 6 gol all'Udinese, stiamo arrivando, rullo compressore, così si fa. Vabbè, quindi aboliamo, dopo i 6 gol segnati, i 4 gettiamo la spugna come sul ring. Se mi posso permettere, il Napoli, la mia opinione è questa, che il Napoli ha giustamente, strameritatamente, una parte della critica decisamente a favore, ma è giusto che sia così perché gioca un gran calcio. Allora, siccome esiste la categoria della bellezza nel mondo, è chiaro che questa squadra si sta prendendo tante simpatie in Italia e anche all'estero, certo. Le parole di Guardiola non erano parole di circostanza, e vincere giocando bene è un valore, quindi da questo punto di vista io non mi sento di dire ci sia chissà quale complotto mediatico. Ieri secondo me i 6 gol della Juve pesano, perché la Juve era in 10, cioè, la vera notizia di ieri è che ieri a un certo punto al 48esimo su 2-2 a Udine, con una squadra che ha fatto un punto nelle ultime due partite con un uomo in meno, insomma la Juve ha fatto un grande secondo tempo. Assolutamente, quindi, secondo me le sottolineature che abbiamo letto oggi non sono forzate. No. Il campionato vincerà la squadra, a parte che poi penso che alla fine il Napoli secondo me farà più gol della Juve in campionato. Sì, ma poi sono categorie dello spirito. La Juve ne subirà meno del Napoli, cioè, secondo me poi alla fine si riassesteranno questi due meccanismi. Chiaro. Il Napoli quest'anno sta concedendo meno gol, e questo secondo me è un valore aggiunto importante. Certo. È un valore aggiunto importante. Alessandro, dica. Da Milano. Ascolti, io però chiamo appunto per la Juve, per l'episodio di ieri. Vabbè, uno che Allegri praticamente la VAR non la voleva e quindi non gliel'hanno data in questo caso. E poi io voglio capire perché ieri Mandžukić doveva essere espulso. Mandžukić è stato beccato dietro la gamba, era per terra, è andato l'avversario a rompergli le scatole, lui non ha fatto niente, è stato ammonito. Poi sulla seconda ci stava, e allora è quella che conta, dal punto di vista, va la bene, prima era inesistente. Allora stiamo dicendo due cose un po' diverse, possiamo discutere, c'era rigore, non lo so, Allegri ha valutato questa roba qui, va bene, prende il giallo, diciamo che non c'era, però ti trovi in quella condizione, no, con il giallo, e tu sfanculi l'arbitro, rimane, da un millimetro. Rimane, ragazzi, dai, è inutile che vediamo discutere questa roba. Siamo d'accordo, penso che sia uno degli episodi più facilmente intellegibili. Da un lato c'è un errore dell'arbitro e del VAR, perché lì c'è un contatto, c'è un calcio di rigore. Dall'altro c'è un'ingenuità di un calciatore che oltretutto è esperto, ha una certa esperienza, e che quando prende il cartellino giallo ha una reazione che gli costa il secondo giallo. Quindi è ovvio che, dai, dobbiamo discutere di questa roba, è ovvio, no, cioè c'era il rigore e quindi ha sbagliato l'arbitro, però poi dopo questo errore qui, quando gli sventrano il giallo, lui non deve reagire. È chiaro, e reagisce in un modo tale per cui non c'è dovere, io, cioè, te, parlo, gente, a chi vuoi, è chiaro che si becca un giallo sul naso, il secondo, che non può essere evitato in quelle condizioni. Cristiano, Sì, salve, buon pomeriggio. Intanto, complimenti per la trasmissione. Scala il tempo, dica. Sì, niente, allora, secondo me Bonucci è stato sempre sopravvalutato perché comunque ha fatto parte di una difesa della Juventus che conosciamo bene da molti anni, collaudata e quant'altro, quindi è arrivato al Milan e chiaramente deve dimostrare tutto e questo comporta i problemi che sta avendo in questo periodo. E poi volevo sottolineare che invece in estate si è parlato pochissimo di Skriniar all'Inter, anzi era stato quasi paragonato a un bidone, e invece si sta, devo dire, manifestando un ottimo giocatore, e quindi questo è stato sottovalutato all'inizio, però devo dire contro Mertens ha fatto una grande figura. No, ma assolutamente, guardi, è un giocatore che stiamo scoprendo. Su sorrisi e canzoni, ma è culo, è puro culo. di inizio campionato, chi sarà la sorpresa del campionato? Ho messo Skriniar. Vabbè, adesso provi a tirarti fuori dalle sabbie mobili dei pronostici, dai, su. La verità, che sabbie mobili? Domani sera andiamo 4-3, fra mercoledì. Siamo già 4-3. Ciao Pierino, buon tichitacheggio. Buon tichitacheggio, ti guardo stasera in TV. Cavallo sta bene, l'hai sentito dopo la sconfitta? Non l'ho sentito, mi spiace. 23:15 stasera, Bruno Giordano, tantissimo VAR, tanto Bonucci, tante cose. A dopo, a domani. Ciao, domani. Grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!